Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Alle 8:34 minuti, scusatemi se rido, ma ho letto un messaggio che è appena arrivato su WhatsApp, poi cercherò di leggerne almeno qualche passaggio. Alle 8:34 minuti, una nuova puntata di Si può fare. Carlo, buongiorno, come va? Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, va bene, molto bene devo dire, insomma siamo in questa fase 3 che di nuovo non capiamo se è proprio stata definita fase 3, ma dai DPCM direi di sì, che siamo ufficialmente in fase 3 e insomma, qualunque fase sia, ecco. Ma ma liberi, esatto. Ma liberi, diciamo così. Però c'è questo papà che ha scritto poco fa, io ve lo devo leggere, mi ha fatto molto ridere. Ho iniziato a leggere questo WhatsApp credendo che andasse a prendere una piega tutt'altro che divertente, invece poi insomma finisce bene. È scritto da un papà: sono un papà, caro ministro Azzolina, papà di un bambino che fa la prima media, io non ce la faccio più, ho ristudiato il neolitico, i romani, i normanni, i saraceni, le frazioni, le potenze, i verbi della prima, della seconda e della terza coniugazione, i bachi da seta, una poesia di Pasqua, tutta a memoria. Mio figlio intanto si sta trasformando in un appendice della PlayStation. E poi va avanti e dice: ministra Azzolina, mi tolga intanto le chat, mi tolga tutta questa cosa, lei deve fare qualcosa, lei deve farli tornare a scuola. Mio figlio glielo mando coi guanti, con la mascherina, nel domopack, nella carta da forno, sotto vuoto, impacchettato, con o senza fiocco, faccia lei, ma faccia in fretta. A me ha fatto molto ridere, penso che una bella posizione questa. Esatto, ci siamo in confronto a quella che ha postato Salvini, in cui c'era quella che diceva: ma vi rendete conto com'è possibile andare con il plexiglass? Invece giustamente un genitore che dice: io ve lo mando in qualunque modo, basta che ve lo prendiate. Perché non voglio più questa appendice della PlayStation e soprattutto non voglio più imparare il flauto, avere la chat dei genitori, imparare, ripassare tutti i normanni. Io ricordo con orrore i sumeri. Questa full immersion nei sumeri, va bene. Com'è andata la tua settimana? Me l'hai detto, va tutto molto meglio. Qualche buona notizia da segnalare? Ma prima diciamo i nostri numeri di telefono: 800 24 00 24 se volete partecipare. Oggi c'è il quiz, giusto? Quindi potete già chiamare per prenotarvi, oppure se volete anche intervenire sui nostri temi. E abbiamo letto che in tutto il mondo si abbattono statue di personaggi di qualunque tipo, si propone addirittura di abbattere altre statue. E noi invece vorremmo chiedervi una cosa diversa. Noi vi vorremmo chiedere quali statue vorreste erigere nelle città italiane, cioè a chi secondo voi andrebbe dedicata una statua. Quindi invece che partecipare a questo un po' stupido abbattimento delle statue, noi preferiamo erigerle di nuove e vi chiediamo a voi. Tu, Laura, hai una tua statua che vorresti? Ma adesso ci penso, vi dirò quale statua, se mi viene in mente, per me magari personale, un po' di culto della persona potrebbe essere un'idea. La mia statuina me la metto magari sul balcone, ecco, per evitare che qualcuno la imbratti. Comunque, 824. Io tra le statue... Prego. No, dicevo 800 24 00 24, per appunto dirci quale statua erigereste piuttosto che abbattere statue. Noi ne vorremmo di più nei nostri giardini, anche per parchi pubblici. E poi 349 238 6666, vale anche questo numero. L'800 24 00 24 è anche per partecipare al quiz, come giustamente Carlo vi ha ricordato, perché oggi è giornata di quiz. Dicevi? No, dicevo che fra le statue anch'io ci ho pensato a quale vorrei erigere. Ho pensato che, come c'è la statua del Milite Ignoto, mi piacerebbe che ci fosse una statua dell'utente ignoto, l'utente di internet, l'utente dei social. Lo chiamo utente perché chiamarlo la statua al socialista ignoto direi che mi sembra un po' troppo divisivo. Ovvero quello che quando legge una provocazione non ci casca, quello che quando legge una fake news non la condivide, non la manda a tutti gli amici, quello che non fa gruppi WhatsApp per infettare tutti con panzani strane dette dai nostri politici. Ecco, mi piacerebbe una statua all'utente ignoto, quello che fa l'utente fatto bene. Anche uno che legge magari qualcosa, no, una statua a un lettore ignoto, anche uno che non prende e digerisce qualunque informazione, ma magari la controlla, la valuta e poi si fa una sua opinione. Va bene, notizie di settimana buone, dai. Io qui notizie ho... di settimana. Mentre in Italia assistiamo, diciamo, a questo siparietto comico della Lega, che dall'alto della propria cultura celodurista chiede in Parlamento di bocciare la ministra dell'istruzione Azzolina, che a sua volta corregge via tweet Salvini sbagliando lei e schiantandosi sull'ortografia del plexiglass, negli Stati Uniti e nel resto del mondo continuano le proteste per il razzismo, le ingiustizie manifeste delle forze dell'ordine nei confronti delle persone di colore, l'uccisione di George Floyd, l'ennesimo caso scatenante. Ecco, come abbiamo visto più volte in questo periodo di pandemia, direi che l'insegnamento da portarsi a casa è che la qualità delle persone si vede nel momento dell'emergenza. Trump, dopo aver twittato Law and Order, che è anche il titolo di una famosa serie, infatti ha creato un sacco di ironia, e dopo aver detto quando iniziano i saccheggi noi iniziamo a sparare, ha fatto costruire un muro davanti alla Casa Bianca per proteggersi dai manifestanti, per riuscire a disperderli meglio. A molti è sembrato incredibile, tanti hanno sostenuto fosse un enorme segno di debolezza. L'opposizione addirittura ha chiesto venisse rimosso perché lede il diritto degli americani di manifestare nelle immediate vicinanze del centro del potere. Ma la buona notizia è che quel muro è stato trasformato in un memorial. Su ogni centimetro quadrato di quella cancellata della vergogna sono stati applicati cartelli e foto, slogan, invocazioni, preghiere, magliette, bandiere, qualunque cosa, per non dimenticare, per cominciare finalmente a parlarne, per iniziare una discussione che porti a dei cambiamenti reali, per dire chiaramente quello che state facendo lì dentro non ci va bene. Un muro che era pensato per escludere, per salvarsi, è diventato un simbolo dell'unione di chi sta fuori. Tanto che Muriel Bowser, che è il sindaco di Washington, ha ribattezzato la sezione della 16ª strada di fronte al muro in acciaio Black Lives Matter Plaza. Un muro può servire per chiudersi dentro e proteggersi dagli altri escludendoli, ma può anche essere usato dagli altri per proteggersi da te, che in realtà ti sei arroccato e autoescluso. Chi è dentro e chi è fuori, anche dalla storia, dipende sempre dal punto di vista. Allora, lasciamo un minuto di riflessione. Intanto ti faccio un piccolo elenco di coloro che hanno già scritto per la statua. Allora, c'è la statua del populista qualunquista, dice poi ci penseranno i piccioni a conciarla a dovere. Poi c'è una statua all'ignoranza e una all'ipocrisia, propone un ascoltatore di Bergamo, direi immagino con lo stesso intento di evocare il piccione. E poi statue che invece vorrebbero tenere lontani i piccioni, Pino Daniele, cioè che non vorrei, sui quali piccioni non sarebbe meglio non vedere, Pino Daniele, Enzo Biagi, Margherita Hack, Freddie Mercury, John Denver, Johnny Cash e poi ancora la statua all'inventore della lavatrice, alla quale io non so se sei d'accordo aggiungerei quello della lavapiatti, perché secondo me è il mio terzo figlio la lavapiatti, quindi nessuno la tocchi. Non so cosa ne pensate voi in famiglia con Moreno, però la lavapiatti è un bel ritrovato. È un'ottima invenzione, l'abbiamo molto coccolata in questo lockdown. Allora, attenzione, vediamo un po' cos'altro. I volontari di una statua per i volontari di tutte le associazioni nazionali di soccorso, aiuto e protezione civile, molto opportuna. Un gruppo marmoreo dove un medico ignoto cura un paziente intubato nonostante un gruppo di virologi urlanti. La vedo difficile da rendere in un gruppo marmoreo, è questa. Comunque È una proposta di un ascoltatore che ha scritto al 349-238-6666. E poi ce n'è una di ascoltatrice che è già in linea con noi, è Lucia dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Lucia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Lucia della provincia di Vicenza, anzi Montecchio Maggiore, che di solito è conosciuta per i castelli. Esatto. Comunque, ecco, io proponevo Sì, bello vedere tante statue che insomma è meglio tirar via, ma abbiamo in Italia tantissimi grandi esempi che sono ancora tra virgolette nel limbo, soprattutto perché alcune cose non si sono risolte e non si sa se si risolveranno mai. Io vorrei veramente una statua molto semplice, molto lineare a Ilaria Alpi, almeno una statua, se il processo non riesce ancora dopo tutti questi anni le responsabilità. Esatto, io so che ci sono scuole medie soprattutto nell'area di Roma che hanno intitolato appunto a Ilaria Alpi, però una piccola statua semplice come era lei, no, con il suo abbigliamento molto da giornalista sulla prima linea, io ma lo farei. Mi sembra un'ottima idea, mi sembra una bella cosa. Ecco, grazie Lucia, va bene, buona giornata. Buona giornata. Abbiamo la viabilità, torniamo tra pochissimo per parlare, attenzione, di reddito energetico e soprattutto scoprire di che si tratta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, buongiorno. Buongiorno. Mi hanno detto che non doveva entrare prima delle parole Rolling Stones. Mi piace, l'ho tenuta in attesa, ma quando Bob Dylan chiama noi dobbiamo rispondere. Assolutamente, alzo le braccia, le mani, tutto. Allora, reddito energetico. Reddito energetico, intanto di cosa si tratta? È una misura ben diversa dal reddito di cittadinanza. Si rivolge comunque a fasce meno abbienti della popolazione, però ha un duplice obiettivo, no? Perché vuole aiutare da un punto di vista economico, ma aiutare anche l'ambiente. Sì, è un progetto che in realtà avevamo iniziato a pensare e a sviluppare qualche anno fa. Infatti l'abbiamo realizzato in un piccolo comune molto bello, tra l'altro della Sardegna, Porto Torres, grazie a una comunità fantastica, un sindaco che ringrazio, Sean Wheeler. È un progetto che prevede l'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto delle case degli italiani, a partire da quelli meno abbienti, ovviamente con meno disponibilità economiche, ma destinato a tutti. In cambio cosa hanno? È un'installazione gratuita, quindi a spese zero per la famiglia, e la famiglia potrà utilizzare l'energia prodotta dall'impianto gratuitamente. Solo che gli impianti fotovoltaici producono energia anche quando non la utilizzi, perché basta che ci sia la luce. Ora, quando produce energia in eccesso, questa viene messa in rete e viene pagata, perché ovviamente è un servizio. Il fondo è un fondo rotativo, perché quell'energia pagata e messa in rete e non utilizzata torna nel fondo statale per produrre altri impianti fotovoltaici, cioè la famiglia italiana. Ah, quindi si alimenta il fondo grazie alla produzione di energia. Quindi esatto, e la famiglia italiana produce energia anche per il vicino, che magari fra un anno dopo avrà anche lui l'impianto gratuito. Quindi è un modo per andare verso quello sviluppo sostenibile che, insomma, di cui parliamo da tanti anni, per creare lavoro, per far risparmiare in bolletta le famiglie e per ridurre le emissioni inquinanti. Mi sembra molto interessante. Ma quindi la produzione, prego, in più, la produzione in più di energia, nel caso che ci fosse della produzione in più, i soldi non vanno alla famiglia che ha il fotovoltaico, ma tornano all'interno di questo fondo per avere la possibilità di mettere nuovi impianti? Esatto, è proprio questa l'idea. Già abbiamo iniziato a Porto Torres, abbiamo fatto 50 impianti, era un esperimento con 250.000 euro per due anni, abbiamo fatto 50 impianti, questi già stanno iniziando a produrre e l'anno prossimo metteremo altri fotovoltaici su altri pannelli sulle case di altri cittadini. Tra l'altro questa proposta è stata approvata anche in Puglia con 7 milioni di euro per iniziativa del Movimento 5 Stelle, ma approvata anche dal governatore attuale Emiliano, e io spero che a mesi parta, insomma. E poi adesso siamo arrivati a livello nazionale, ovviamente, perché insomma, abbiamo fatto una scalata graduale dal comune alla regione, adesso a livello nazionale, e ovviamente va implementata con i decreti attuativi che seguiremo e prenderemo anche esempio dall'esperienza a livello territoriale, perché alcune cose sono andate bene, alcune certo. cose hanno migliorato. Tra l'altro anche una prospettiva di integrazione con le nuove direttive europee, perché adesso dovremo andare verso le reti di energia, le reti elettriche, le comunità energetiche, cioè l'impianto fotovoltaico sul tetto di una casa potrà produrre energia per una famiglia che abita magari in un altro condominio. Quindi dovremo iniziare sempre di più a mettere in connessione gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e metterli a rete. Ma senta, scusi se la interrompo, certo, ma la questione certo. dei palazzi, che sono palazzi alti, no? Lì si supera anche questa difficoltà. Adesso io penso, una famiglia meno abbiente abita in un condominio. Mm-hmm. Come... Attualmente gli impianti fotovoltaici nei condomini servono soprattutto per alimentare le parti comuni, l'ascensore, sì. le luci del vanoscale, queste cose qui. Con le comunità energetiche, che poi sono il futuro, potremmo fare in modo che quell'impianto, quando produce energia e non c'è l'ascensore che va, può produrre energia per una famiglia che sta magari anche in un altro condominio che sta accendendo la lavatrice. Questa è la rete. Mi scusi, ma quello che ci chiedevamo, nel senso. Sì. Io credo che sia veramente una buona notizia, soprattutto perché questo è un cambio di paradigma, cioè invece che andare da chi ha dei bisogni economici e pagargli una bolletta, una tantum, decidere di mettergli un impianto fotovoltaico di modo che per sempre probabilmente abbia l'energia elettrica, la trovo un cambio di paradigma e quindi assolutamente una buona notizia. La domanda che ci facevamo era, cioè vale solamente per i proprietari di casa, perché uno nel momento che ha il proprio tetto lì mette il fotovoltaico, o vale anche per chi abita in affitto, per esempio? Perché per chi è in affitto è abbastanza difficile, perché poi il fotovoltaico resta ai proprietari. Beh, la domanda la dovrà fare il proprietario, ne godrà l'affittuario. Mi sembrerebbe rivoluzionario, cioè, se riuscite a fare tutto percorso netto sarà fantastico. Credo. Guardi, allora sono 200 milioni, quindi immagino che faremo una 50.000 60.000 impianti, non copriremo tutto il fabbisogno, ma questo si unisce con l'altra misura che abbiamo già approvato e convertendo in Parlamento, che è invece il super bonus, dove lì si sì, può coprire veramente tutte le case degli italiani, tutti quelli che si attiveranno, e lì faremo non solo fotovoltaico, ma anche il capoto termico, l'accumulatore, c'è anche la colonnina elettrica per la ricarica delle automobili. Quindi stiamo dicendo, vabbè, dobbiamo ripartire, perché abbiamo avuto una pandemia che ci ha massacrato tutti quanti, tutto il mondo. Ripartiamo dalla sostenibilità, dall'efficienza, dal risparmio energetico, dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e dall'edilizia, che è trainante per il settore. È un po' il nostro progetto il nostro progetto per il rilancio di questo paese. È una è la famosa ripartenza con un passo diverso, perché se riproponiamo i modelli vecchi non può esserci niente di nuovo. Sì, ma è la ripartenza che ci avevano chiesto i giovani di tutto il mondo manifestando per le piazze. Insomma, adesso io penso che abbiano diritto a una risposta. Le nuove generazioni si aspettano questo e noi siamo pagati per, anche per dargli una, un futuro, una prospettiva di futuro. A dargli anche le gambe, appunto, con i famosi 200 milioni e anche con prossimi... E poi si parla di lavoro, no? Perché tutto questo richiede manodopera. Un impianto fotovoltaico non è solo l'installazione. Quando, se noi mettiamo un impianto fotovoltaico sul tetto di una famiglia, sono, un impianto dura 20-25 anni, forse anche di più adesso con le nuove, con la crescita tecnologica, e c'è la manutenzione costante, ci sono persone che vanno a lavorare e mettere sul tetto queste ditte che investono. Insomma, questa è l'economia che ci piace. Eh certo. Senta, ma vai, abbiamo 30 secondi, vai. Esatto, volevo fare una domanda rapidissima sullo spazio. Abbiamo letto un suo tweet dove dice: la Crew Dragon di SpaceX è partita, la base italiana di Malindi è una delle tracking station della missione. Che cos'è la base italiana di Malindi e che cosa abbiamo fatto noi per SpaceX? Allora, l'Italia, pochi lo, non tutti lo sanno, è un leader, è tra i paesi al mondo più avanzati nella tecnologia e nell'industria spaziale. Noi dagli anni 60 abbiamo una base spaziale in Kenya, a Malindi, di proprietà tra l'altro della Sapienza, e lì abbiamo dei, una comunità scientifica, dei radar che svolgono un'attività molto importante, tracciano i satelliti o le navicelle spaziali che devono raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, quindi danno il loro contributo, anche noi diamo il, loro, diamo il nostro contributo come italiani alla realizzazione del successo di queste missioni. Ma tra settimana prossima lanceremo un razzo sullo spazio italiano e racconteremo anche questo. Cioè, ed è un settore estremamente che ha un potenziale enorme, soprattutto con i nuovi progetti americani per ritornare sulla Luna. Anche lì avremo uno spazio di investimento, uno spazio di sviluppo dell'economia italiana molto importante. La ringraziamo, sottosegretario Farcaro. Buon lavoro, alla prossima occasione. Grazie a voi. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ritrovati a tutti gli ascoltatori di Si Può Fare, continuate pure a mandarci le vostre proposte per statue in giro per l'Italia. Vi leggo le ultime proposte arrivate: a Ayrton Senna, Michael Schumacher, poi ancora Sandro Pertini, che però credo sia già ben rappresentato, statue di donne eccellenti in generale, statua a Libertà e Autonomia, direi chiaramente politica come presa di posizione. Carlo, che ne dici di queste ultime proposte? Ci sono anche moltissimi che vorrebbero che si dedicasse una statua a Giulio Regeni, e ci tenevo a ricordarlo, visto anche gli ultimi sviluppi delle due fregate italiane che verranno costruite per l'Egitto. Esattamente. E noi adesso andiamo, abbiamo parlato prima di Porto Torres con il sottosegretario Fraccaro, bene, andiamo di nuovo in Sardegna con Lorenzo Mori, ideatore della collana Non Turismo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Perché esce questa nuova guida per viaggiatori, non per turisti? C'è una differenza per voi, vero? Beh, è sostanziale, tant'è vero che la collana si chiama Non Turismo, proprio a sottolineare la, come dire, la distanza che prendiamo da un'idea di turismo che spesso consuma i territori piuttosto che valorizzarli. Diciamo che la collana, appunto, caratterizza per una serie di elementi, diciamo, innovativi, fortemente innovativi. È una collana editoriale appena uscita per Ediciclo Editore, quindi nuova, questa di Sant'Elia in Sardegna. Sant'Elia è un quartiere marginale, è un quartiere, esatto, è un quartiere a sud di Cagliari, diciamo, un quartiere problematico che a seguito era originariamente una comunità di pescatori, che viveva addirittura dentro un lazzaretto, dopodiché a seguito di una serie di interventi urbanistici abbastanza scellerati degli anni 70 è stata trasferita in palazzoni di cemento e quindi in qualche modo è stata sradicata. Diciamo che questa piccola parabola risponde molto bene al senso del non turismo, cioè noi andiamo nei territori marginali d'Italia, ecco, questa è una delle caratteristiche della collana, attiviamo delle redazioni di comunità, cioè dei processi partecipativi, quindi di coinvolgimento degli abitanti, che iniziano a pensarsi e a costruirsi nell'ottica di una proposta editoriale, appunto turistica. Quindi in questo senso li affianchiamo a degli artisti che vanno in residenza appunto nel luogo e che aiutano gli abitanti a costruire una narrazione emotiva, coinvolgente, insomma autentica. Quindi è un doppio lavoro, nel senso che è molto più facile andare lì e descrivere un qualche cosa, no? Mando un narratore, un giornalista, quello che vogliamo, insomma un esperto dei luoghi che ti racconta questa situazione. Invece voi mandate qualcuno che fa raccontare, quindi deve tirar fuori questo racconto dagli abitanti. Esatto, noi troviamo, in qualche modo mandiamo dei facilitatori, cioè delle persone che possono dare agli abitanti gli strumenti per raccontarsi. Pensiamo che spesso i luoghi marginali d'Italia, ce ne sono tantissimi, pieni di risorse, cioè di bellezze in qualche modo da valorizzare, spesso non lo facciano semplicemente perché non hanno gli strumenti per farlo, perché nessuno pensa a delle rotte turistiche alternative a quelle, diciamo, tra virgolette mainstream. E in questo senso non turismo si apre questa possibilità fondamentalmente. E tra l'altro, lavorando in a questo sembra modo... A me sembra un'idea straordinaria, soprattutto perché c'è un bellissimo tentativo di creare comunità, perché nel momento in cui si deve installare una redazione, la redazione è fatta da persone del luogo, questo può anche creare comunità e far nascere delle nuove... quindi mi chiedevo se ci raccontava com'è andata a Cagliari o com'è andata in un altro posto, delle prossime uscite, come è stata formata la redazione. Ci sono tante persone che vogliono partecipare, persone che vogliono raccontare la storia della propria famiglia o di un proprio amico, certo. Come funziona questa redazione? No, esatto Carlo, cioè quello che hai detto è esattamente un po' il fulcro del funzionamento della redazione, infatti si chiama redazione di comunità, nel senso che spesso e volentieri le persone iniziano in maniera molto sparuta, molto con un po' magari di indecisione a frequentare questi luoghi. E poi piano piano si creano dei collettivi molto, molto attivi e molto disponibili a mettersi in gioco e a offrire, diciamo, il proprio vissuto, quindi quello intimo, quello familiare, eccetera, mettendo a disposizione dei creativi che in qualche modo li aiutano a dare forma. La situazione di Cagliari, la situazione di Sant'Elia, per meglio dire, è stata stupenda nella misura in cui ci ha fatto capire anche a noi che siamo un po' gli ideatori, io appunto Lorenzo Mori ma anche Federico Bomba di Sinegrossa, siamo gli ideatori appunto di questa collana, e ci ha fatto capire proprio le potenzialità, in che senso? Nel senso che man mano che andavano avanti gli incontri emergeva una caratteristica identitaria molto forte che apparentemente era completamente assopita. Per esempio noi abbiamo lavorato un contemporaneo in tre luoghi d'Italia diversi, per esempio i Sinegrossa che hanno sede ad Ancona hanno lavorato ad Ussita è un paesino sui monti Sibillini che è stato distrutto dal terremoto del 2016. Mm-hmm. E purtroppo abbiamo conosciuto il nome in quell'occasione, infatti. Esatto, purtroppo sì, è un posto meraviglioso, noi siamo andati in residenza varie volte a lavorare con la comunità appunto di Ussita e in qualche modo per loro questo progetto era proprio un'occasione. Ecco, era quasi un'opportunità, no? Da una crisi è nata un'opportunità che era quella di ripensarsi come comunità e di scegliere quali valori e quale tipo anche di rapporto col territorio volessero ricostruire. E quindi lì, in qualche modo, la guida ha preso come dire, ha preso un taglio che abbiamo definito sismico, nel senso che ci sono tutta una serie di frammenti che compongono la guida e che non abbiamo volutamente, proprio per rispettare anche il, come dire, la situazione emotiva profonda della redazione di comunità, non abbiamo voluto unire più di tanto. Mentre a Sant'Elia è nato fortissimo, è emerso in maniera forte, noi lo chiamiamo genius loci, cioè uno spirito del luogo in qualche modo, è emerso in maniera molto forte la cucina come elemento identitario, come collante comunitario. Quindi man mano che andavano avanti le redazioni comunitarie, no, insomma le donne di Sant'Elia, ci sono le associazioni del terzo settore locale che hanno partecipato, in particolare questa associazione che si chiama Sant'Elia Viva, con queste donne stupende che combattono nel quartiere per i diritti sociali di quelli, insomma, dei più poveri, eccetera eccetera, arrivavano con le pizzette, arrivavano con i dolci sardi, eccetera eccetera, addirittura con i piatti di pesce. E quindi abbiamo capito che quello doveva essere in qualche modo lo snodo e la chiave che desse il taglio alla guida di Sant'Elia. E quindi è stata la cucina. Sì, perché ogni guida in realtà ha un taglio completamente diverso. Noi adesso abbiamo fatto uscire questa prima, poi ce ne saranno altri due, la prossima appunto sarà questa guida sismica di Usita, ma la terza sarà un libro gioco addirittura di un'altra comunità di pescatori. Ok, allora adesso noi ci dobbiamo salutare, però ci piacciono molto queste guide, quindi via via che escono, per favore, Lorenzo Mori, ci tenga al corrente. Laura, le posso dire questa cosa? Lei, insomma, a tutti gli ascoltatori, guardate, basta andare nei social di Non Turismo, è facilissimo perché sia Facebook che Instagram, basta scrivere Non Turismo e li trovate, e quelli li aggiorniamo quotidianamente, anche con contenuti particolari, con approfondimenti, ci sono i video delle donne di Sant'Elia che raccontano, insomma, sono molto carini, quindi se voi seguite i social praticamente potete essere completamente... Vi seguiamo noi, promesso che vi seguiamo noi. Grazie. Buona giornata, buona Lorenzo voi. Mori, giornata, Non Turismo. Iniziamo con Sant'Elia, ovviamente. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Vincenzo è chiamato dalla provincia di Milano per dirci quale statua erigerebbe. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. A voi. Io in controtendenza con la moda di adesso buttare giù le statue, che secondo me è una cosa pazzesca. Io erigerei un monumento ai caduti del Covid. Anche in memoria del periodo, del periodo, e anche, come dire, in testimonianza della vergogna per lo scaricabarile che stanno facendo sia Conte, sì, sulle responsabilità, sulla gestione. Non è possibile così giustificarsi e liberarsi del problema con un luogo comune dicendo che uno ha agito in scienza e coscienza, perché la frase fa bello, insomma, cioè la scienza, intanto lui, voglio dire, non può dirlo perché è un avvocato, in coscienza, voglio dire, avete allertato un esercito, è come prepararsi alla guerra e poi lasciarlo lì inutilmente. Quindi, insomma, lei sottolineerebbe con questa statua sia il ricordo sia in generale la questione delle responsabilità. La testimonianza anche della vergogna che hanno avuto. O comunque un avviso per il futuro. Grazie Vincenzo. Buona giornata. Oh, E torniamo a viaggiare in questo periodo e torniamo a viaggiare in treno, che poi dopo è il mezzo dell'estate, no? Per tanti di noi, specialmente per i più giovani, quelli che non hanno la patente, sicuramente il treno è il mezzo dell'estate. Marco Mancini è il portavoce del gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il coronavirus però ovviamente cambierà un po' il nostro modo di viaggiare, voi vi siete attrezzati, vorremmo con lei fare un po' una panoramica, no, di quello che è successo e di quello che è cambiato. Le stazioni, per esempio, io sono stata alla stazione centrale di Milano una settimana fa e ovviamente ho dovuto prendere confidenza con tutto un nuovo modo di muoversi in stazione. E questo sì, questo è cambiato tutto, il modo di muoversi, come il modo di vivere la vita quotidiana, da fare la spesa ad andare in farmacia, però lo stiamo facendo con estrema sicurezza e con grande attenzione alle esigenze delle persone. Bisogna ricordare che Ferrovie dello Stato e Trenitalia hanno sempre lavorato e mosso i treni anche nel periodo lockdown, e l'abbiamo fatto garantendo quindi da un lato il diritto alla mobilità e l'altro, altrettanto essenziale, qual è il diritto alla salute. Oggi nelle stazioni si entra e si esce con percorsi separati, cioè l'obiettivo è quello di ridurre al minimo i contatti, quindi percorsi, flussi separati, vale nelle stazioni, vale sui treni dove ci sono delle porte per l'accesso e delle porte per l'uscita, segnaletica quindi sul pavimento che indica la direzione da prendere e anche la posizione da tenere per rimanere in quella che ormai è diventato un mantra, il distanziamento sociale, la distanza quindi tra una persona e l'altra. Avviene nelle grandi stazioni, nelle stazioni ad alta velocità, dove è previsto anche il controllo della temperatura a tutte le persone che accedono appunto ai treni ad alta velocità e all'intercity. Laddove una persona avesse una temperatura superiore ai 37,5 gradi, non gli sarà consentito di accedere al servizio. Cioè addirittura un doppio controllo in ingresso e in uscita, ho sentito, e nel caso ci fosse il sospetto, il controllo poi ad personam, diciamo, no? Quindi... Esatto, il controllo soprattutto in ingresso, quindi inibito l'ingresso al servizio, insomma anche l'uscita è di per sé, però ecco, in ingresso il termoscanner identifica una persona che potrebbe avere una temperatura superiore, allora c'è un ulteriore check e se effettivamente si riscontra questa temperatura superiore, che poi non necessariamente sarà Covid-19, ma questo comunque è un filtro di sicurezza. A bordo treno c'è tutta una serie di misure che sono state adottate nel tempo e si sono mano a mano affinate, perché ripeto, noi fin da fine febbraio avevamo sia il personale con un kit di sicurezza proprio, quindi mascherine di due tipi, una mascherina quella chirurgica che difende gli altri da un possibile contagio e quelle FFP2 che difendono il personale, quindi una serie di misure che nel tempo si sono affinate. Oggi sui treni si sale e si viaggia in modo tale da essere distanti almeno un metro dal compagno di viaggio, lo si fa sulle frecce e sugli intercity con dei sistemi di vendita, abbiamo messo a punto con la nostra società di tecnologia FS Technology un algoritmo che fa sì che si venda soltanto posti a scacchiera, lo si fa sul regionale dove dei marker rossi identificano le sedute da non utilizzare, un po' come metropolitana abbiamo visto, come nel esatto. Pullman, tra l'altro voi avete anche i Pullman. Abbiamo anche Pullman, abbiamo società Bus Italia e in analogia a quanto è stato fatto sui treni sta avvenendo anche con Bus Italia, con ATAF, la società del gruppo FS che lavorano in sicurezza. Gel, ecco, i gel igienizzanti, pochi giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in dubbio l'utilità dei guanti, noi li raccomandiamo, li mettiamo in un safety kit che consegniamo a tutti i viaggiatori delle frecce, però in alternativa e in aggiunta a questo ci sono dei dispenser di gel che noi abbiamo iniziato a installare da febbraio sui treni e nelle stazioni, che consentono questa igienizzazione continua delle mani, che è uno degli strumenti di profilassi più importanti. Mi consenta una battuta, io le stazioni così pulite insomma non le abbiamo mai viste, abbiamo visto, no? Adesso addirittura c'è i gel per igienizzarsi, è tutto un altro film. Stavo pensando che... Senta, ma Ma su, visto il fatto che vendete la metà dei biglietti, mi chiedevo se c'era in previsione un ritocco dei prezzi, in qualche modo, se i prezzi rimarranno gli stessi. E poi questa cosa del kit, che ci sembra molto buona, che su tutti i viaggiatori delle Frecce hanno il kit, c'è chi si chiede, ma si può estendere il kit a tutti i treni? Perché c'è anche chi viaggia sul regionale e loro il kit non ce l'hanno. Allora, due questioni. I prezzi non solo non aumentano, non è previsto alcun rincaro, quindi questo lo escludo in assoluto, ma ci sono addirittura, per quest'estate si apre per Trenitalia e per Ferrovie già da domani, da domenica, una serie di iniziative di promozione che consentono di viaggiare a prezzi veramente stracciati. Le faccio un esempio: sui regionali consentono quel turismo di prossimità, che sarà una dei, anche queste, diciamo, delle mete, degli strumenti per rilanciare il turismo. E con 49 euro per 4 fine settimana si può girare senza limiti dal venerdì al lunedì e quindi raggiungere tanti borghi, piccole città in Italia, quindi nessun aumento. Per quanto riguarda lei mi chiedeva i 6 pedikit, è evidente che sui regionali stiamo... i kit. Esatto, li chiamiamo 6 pedikit perché contengono appunto degli strumenti di protezione personale. È evidente che un conto è le Frecce, dove il numero di persone è contingentato e le stazioni sono contingentate. Sui regionali è anche materialmente impossibile, perché la gente sale e scende in ogni stazione. Quello che però stiamo facendo, e ne ha parlato ieri il nostro amministratore delegato di gruppo nella conferenza stampa di presentazione dell'orario, noi abbiamo un'officina di manutenzione di RFI che è stata riconvertita per produrre mascherine. Saremo in grado di produrre 1 milione di mascherine alla settimana, che soddisferanno, quelle sono le esigenze interne del personale, ma avranno un surplus che consegneremo alla Protezione Civile per le necessità della collettività in generale, perché no, anche di quella che utilizza i treni. Dall'altro, in tutte le stazioni, tabacchi, negozi di tabacchi, negozi forniscono le mascherine a quel prezzo contingentato che è stato stabilito in sede governativa. Senta, ma io l'ho letto questa mattina, non so insomma se avete ancora ragionato su questo. Ho letto stamattina sul Messaggero che sugli aerei si potrà, cioè si dovrà cambiare mascherina ogni 4 ore. Per voi è diverso, però, forse perché ci si aprono e chiudono le porte, no? Quindi non è lo stesso ragionamento. Allora, il ricambio d'aria è sicuramente maggiore, anche gli impianti di condizionamento sono tali, è previsto un ricambio di un ricircolo di aria ogni 10 minuti completo e una quantità di aria a persona superiore di quella degli altri, rispetto agli altri mezzi di trasporto. Sui regionali è stato tolto il temporizzatore che fa aprire e chiudere le porte in modo tale che le porte restino sempre aperte e quindi anche i vestiboli siano areggiati. Quello che per noi, però, noi facciamo e abbiamo sempre fatto è rispettare i protocolli di sicurezza che ci vengono impartiti dalle autorità competenti in materia. Noi abbiamo anche noi una struttura sanitaria che vigila e quindi ci dà delle indicazioni, ma quelle che contano sono quelle che vengono impartite a livello nazionale dalle autorità competenti, governative e ministeriali. Quindi l'abbiamo sempre fatto, ripeto, in anticipo, forse perché da febbraio eravamo già pronti prima che scoppiasse Codogno e i primi casi eclatanti in Lombardia e in Veneto ad affrontare una possibile emergenza. Abbiamo istituito sempre da febbraio. Ma un'emergenza teorica o temevate proprio il Covid? No, noi eravamo pronti a affrontarla. Avevamo istituito già alla fine di febbraio un team intersocietario che seguisse tutta l'evoluzione degli eventi, quindi non ci siamo fatti trovare assolutamente impreparati e, come ho detto, abbiamo assicurato la mobilità in quel periodo, abbiamo trasportato con Mercitalia una quantità di generi di prima necessità imponente, assicurando il rifornimento a quelle che è la catena di distribuzione di servizi e di generi essenziali. Ecco, 5 milioni di merci trasportate in Italia. Allora, le dobbiamo fare l'ultima domanda, Carlo, vero? La questione bicicletta, qui tengono molto gli ascoltatori. Allora, sui nostri treni le biciclette impieghevoli si possono trasportare gratuitamente, c'è un'attenzione costante all'integrazione sostenibile dei mezzi di mobilità. Il treno è il mezzo sostenibile collettivo per eccellenza, la micromobilità sostenibile fatta da biciclette, monopattini, monopattini elettrici, eccetera, è, come dire, sostenuta e sollecitata dal gruppo FS. Sui treni le biciclette, ho detto, quelle pieghevoli viaggio gratis, i monopattini viaggiano gratis, ci sono addirittura delle iniziative, ce n'è una pilota in Friuli Venezia Giulia, dove il venerdì, il sabato e domenica ci sono due vetture sulle quali si possono portare fino a 64 bici per incentivare un turismo sostenibile, il turismo che ci porta in tante località e ci consente di proseguire in bici. Vi dico un'altra cosa, noi abbiamo la Freccia, il nostro magazine, FS News, che è il notiziario quotidiano online, stiamo per pubblicare online un travel book di Trenitalia con le ciclovie. Che significa? Significa arrivo in una stazione con la mia bici e so cosa devo fare. Certo. E in plein air mi faccio un'ora, due ore, tre ore di pedalata e vivo la prossima estate in sicurezza, perché sui treni si viaggia sicuri e soprattutto all'aria aperta, che è quello che tutti noi auspichiamo in questo periodo e che desideriamo. Quindi ci ha detto che non diminuisce lo spazio, ecco, per le biciclette, nonostante gli spazi ovviamente che dovranno essere, no, nei treni utilizzati in modo diverso. Allora, il fatto che sui vestiboli, i vestiboli lasciamo liberi, le sedute sono, come ho detto, alternate, sui treni regionali si vanno a occupare le sedute lato finestrino, lasciando libero il corridoio. Esistono degli spazi e consentono di portare la bicicletta. Dico questo, con Trenitalia fino a oggi, da domani saranno circa 6.000 i treni che torneranno a viaggiare, quindi un'offerta paragonabile a quella pre-Covid, in più 150 frecce e 100 intercity, e raggiungeranno tutte le principali località turistiche, ormai è tutti noto il Freccia Rossa che raggiungerà la Versilia, l'Argentario, passando dalla costa ligure tra Milano e Roma. Ecco, non ci sono problemi, non abbiamo mai rilevato in questo periodo problemi per il trasporto bici. In più lo incentiviamo soprattutto in versione leisure turistica, perché crediamo molto in questo binomio e lavoriamo e stiamo lavorando anche proprio con la programmazione estiva a dare una mano al turismo, sia quello di prossimità sia quello che raggiunge le mete più attrattive del nostro bel paese. La ringraziamo molto, Marco Mancini, il portavoce del gruppo FS. Buona giornata, buon proseguimento, buon viaggio. Grazie a voi. Adesso abbiamo una piccola pausa, Carlo, e poi torniamo con i bus. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è un messaggio che propone Carlo di erigere una statua a un impiegato UCAS. Poi dettaglia: ufficio complicazioni, affari semplici. C'è in ogni città, dice. In effetti ha ragione. Adesso però se si merita la statua o no, questo magari potremmo anche, non so, discuterlo a lungo. Tu cosa dici? Direi di no, così, a occhio. A occhio, vero? Io non gliela farei la statua. Una notifica magari all'impiegato del Lucas. Va bene, abbiamo promesso di parlare di bus dopo aver parlato di treni, ma lo facciamo con un taglio un po' diverso, cioè non parliamo di linee di autobus e di pullman, ma parliamo di una startup che era partita nel 2015, Bus for Fun, o se la volete all'inglese Bus for Fun. Era partita nel 2015 con un'ottima così idea di business, rispondere a due esigenze: i giovani che hanno giovanissimi che hanno voglia di partecipare a degli eventi, e l'altra esigenza di parteciparci in sicurezza, quindi raggiungere il luogo del concerto e tornare dal concerto in sicurezza. Questo significa far guidare qualcun altro, spesso e volentieri. Bene, loro erano partiti nel 2015, le cose andavano benissimo e poi è arrivato il Covid. Davide Buscato, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per averci invitato, sono qui col mio socio Luca Campanile, siamo assieme. Ok, attenti a non usare viva voce, però mi metto in guardia subito. Allora, okay. Davide Buscato, lavorate, voi siete... Lavorate anche il sabato evidentemente. Beh, da quando siamo andati in Covid lavoriamo H24 7 su 7. Ah, secondo voi se lo chiamate in Covid, che è come dire in trincea. Benissimo. Allora, voi avete cambiato, no? Avete dovuto fermare quell'attività di trasporto giovani, ma anche altri, insomma, che avessero la necessità di spostamenti specifici per un concerto, per un evento, per una fiera, eccetera, eccetera, e avete immaginato una nuova realtà. Cosa fare per proseguire nella vostra attività e che cosa vi siete inventati? Navette per le aziende, fondamentalmente, che devono trasportare persone da una parte all'altra in sicurezza, secondo certi turni, quindi una cosa diversa, ma non troppo diversa da quella di portare persone avanti e indietro da un evento. Buongiorno, sono Luca. Ah, vi siete scambiati. Buongiorno. C'è stato un cambio in corsa. Sostanzialmente avevamo costruito in 5 anni tantissima tecnologia, network con gli autobus in tutta Italia, e quindi abbiamo immaginato un nuovo scenario per trasportare le persone al lavoro in sicurezza. Quindi, lavorando veramente H24, ci eravamo resi conto che la necessità subentrava, perché trasporto pubblico dimezzato nei posti a sedere, difficoltà di parcheggiare, paura di viaggiare con altri, quindi la soluzione poteva essere bus igienizzati a chiamata a disposizione delle aziende. I bus però non sono di vostra proprietà, vero? Voi organizzate il trasporto, compreso trovate il bus adatto alla situazione. Assolutamente sì, infatti la prima idea, il primo gruppo di lavoro è stato con un'azienda di trasporti qui nel Veneto orientale, dove abbiamo la sede a Venezia, l'ATVO, un'azienda di trasporti che dice: io i pullman fermi, come facciamo per rimetterci in moto? E quindi l'idea è di utilizzare la nostra piattaforma per far prenotare il dipendente, quindi Laura che deve andare a lavoro, prenota il suo pullman all'orario che noi gli indichiamo, diciamo, a una scelta di orari, prenota l'andata, prenota il ritorno. E poi ATVO nel Veneto orientale, piuttosto che Facchinetti, con cui stiamo lavorando a Peschiera Borromeo nel milanese, mettono il loro pullman, l'autista sa quindi quante persone avrà a bordo, in quali fermate, e potrà anche con un'app andare a smarcare il biglietto che gli viene arrivato, che arriva al dipendente. Ma quindi li va a prendere tutti uno per uno sotto casa? Sotto casa no, il punto di arrivo nostro è quello di avere un algoritmo che ottimizza le fermate, che ottimizza i tragitti, quindi Laura e Carlo prenoteranno il viaggio, cercheremo di trovare dei punti di aggregazione che possono anche essere parcheggi di supermercati, vicino a un parco pubblico, vicino ad una scuola. A quel punto salite sul pullman e vi trasportiamo a casa. Se domani Laura non va a lavoro, c'è solo Carlo, salteremo la fermata di Laura, quindi l'algoritmo ottimizzerà il percorso, cercando di fare quindi anche meno chilometri e di instradare il pullman per la strada migliore. Beh, questo però, volevo solamente ricordarlo, è molto interessante, perché non è semplicemente il fatto di fare una cosiddetta navetta che parte da un punto A e arriva a un punto B, è in realtà una navetta che fa diverse soste all'interno della città dove deve andare a prendere i lavoratori e poi fa un unico viaggio per portarli nell'azienda, giusto? Assolutamente sì, abbiamo fatto un'analisi, infatti abbiamo lavorato analizzando grosse realtà, soprattutto nelle grosse città, ma anche nelle grosse aree industriali. Noi veniamo nel Veneto, dove mancano le grossissime realtà che potete avere a Milano, però ci sono dei cluster, ci sono delle zone industriali dove tanti piccoli hanno questa esigenza, quindi l'idea nostra è quella di iniziamo con un tragitto, ma con la realtà più grossa che c'è, e poi ci agganciamo alle altre. Non è un servizio pubblico, è un servizio dedicato alle aziende che ci chiedono quel servizio, quindi ad oggi quel servizio che stiamo facendo a Peschiera Borromeo, chi prenota deve avere un codice che viene rilasciato dall'ufficio personale dell'azienda che ha commissionato il servizio. Beh, mi sembra servizio pubblico. Non è Scusa Laura, pubblico. Dicevo semplicemente, non è un servizio pubblico, ma ha una valenza pubblica per tutti, perché ricordiamo che in questo momento di Covid, nonostante, come abbiamo appena detto, in treno si viaggia piuttosto tranquilli per il distanziamento e tutto, molte persone che hanno paura decidono di prendere la macchina. In questo modo si riescono a togliere magari 15-30 automobili dalla strada e far passare un unico pullman, e quindi si immette meno CO2 e ne guadagniamo tutti. Noi avevamo visto che con l'autobus per andare agli eventi un pullman da 50 posti toglieva dalla strada 17 auto. Per andare al lavoro, dove in auto si viaggia circa una persona per automobile, comunque un pullman anche a, 20, a capienza ridotta al 50%, quindi un pullman che trasporti 25 persone, toglie dalla strada 25 auto. E quindi se pensiamo ai parcheggi delle nostre città, ma anche delle nostre zone industriali, non c'è posto per tutti se andiamo tutti in auto. E invece c'è posto per i tanti alberi che voi avete piantato. Adesso, in conclusione, ricordiamo anche questo passaggio che è interessante. Io racconto sempre, Luca è partito fin dall'inizio a dire piantiamo gli alberi, ogni viaggio che facciamo piantiamo gli alberi, è stata una delle prime cose che abbiamo fatto. Adesso ci troviamo appunto con le foreste in giro per Malawi, Haiti, eccetera. 5 alberi abbiamo piantati noi a Modena dentro al parco Ferrari dopo il concerto di Vasco Rossi. Ieri ricorreva l'ultima data di San Siro dell'anno scorso di Vasco, e quindi noi per ogni viaggio piantiamo un albero, sul discorso quando facevamo gli eventi, e adesso potrebbe essere comunque la nostra intenzione di continuare, quindi per ogni tratta che andremo a fare, insomma, andremo a vedere anche i volumi che facciamo, però non ci dispiacerebbe continuare in questo e quindi piantare gli alberi o nelle zone industriali o nei parchi cittadini, insomma, oppure in giro per il mondo come abbiamo già fatto finora. Anche a noi non spiacerebbe, se poi un giorno bisognerà disboscare questi alberi per far passare dei piccoli pullman, accetteremo anche quello, ma intanto piantiamoli. Grazie. Abbiamo visto che i giovani sono molto attenti a questo piuttosto che le persone di una certa età come noi, e quindi i giovani sono molto attenti nel piantare gli alberi, ci tengono molto. E beh, anche un tangibile ricordo, sicuramente fa piacere. Io so che insomma... E anche perché noi anziani non siamo sicuri di vederli crescere. Oh mamma mia, mamma mia. Siamo in radio, quindi non ci vedete come stiamo facendo adesso. Abbiamo capito, grazie, esatto. Davide, grazie Luca. È la fortuna della radio. Va bene, grazie molto, buona giornata. Adesso abbiamo, a proposito di questo, il traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci arrivati al momento della classifica delle buone notizie della settimana. Ne abbiamo come sempre selezionate 5 e al quinto posto abbiamo scelto questa: stiamo salvando davvero il maestoso leone asiatico, a un passo dall'estinzione, aumenta del 29% il numero degli esemplari. Nel 1990 se ne contavano 284, tanto da inserire appunto il leone asiatico, che vive solo nella foresta indiana del Gujarat, ad essere classificato come specie in via di estinzione. Oggi, grazie a un programma governativo di tutela, la popolazione è in costante aumento e nell'ultimo censimento effettuato il 5 giugno sono stati contati 674 leoni, e cioè 151 in più rispetto al maggio del 2015. Al quarto posto la pecora elettrica torna a vivere. La pecora elettrica è quella libreria di cui vi avevo già parlato, perché è stata incendiata una prima volta il 25 aprile del 2019, una data non casuale, poi è stata ribruciata il 6 novembre dell'anno scorso, il giorno prima della riapertura. I proprietari erano stufi, ovviamente, molto e un po' scoraggiati, ma è entrata in campo la regione Lazio, ovvero aprirà la regione Lazio la pecora elettrica, che un po' come la Fenice rinasce con una nuova forma, e ne siamo molto contenti. Zingaretti ha detto: non potevamo accettare il vuoto lasciato dalla pecora elettrica dopo la serie di attacchi violenti alla libreria e ad altri esercizi commerciali a Centocelle. Abbiamo destinato risorse, 1 milione di euro, a locali vittime di minacce da parte della criminalità. Al terzo posto una buona notizia, un'altra buona notizia per il pianeta: la pesca sta diventando sempre più sostenibile, la gestione delle risorse ittiche funziona, dice la FAO, è giunto il momento di applicarla in modo più ampio. Se ne è parlato in occasione della giornata mondiale degli oceani e la FAO ha reso noto il suo rapporto, lo stato della pesca e dell'acquacoltura mondiale, secondo il quale il consumo mondiale di pesce ha raggiunto il nuovo record di 20,5 kg pro capite all'anno, e nel prossimo decennio è anche destinato ad aumentare. E questo evidenzia il ruolo fondamentale che bisogna svolgere per la sicurezza alimentare e nutrizionale globale. Insomma, c'è ancora un 34,2% di stock ittici che viene pescato a livelli biologicamente non sostenibili, ma la buona notizia è che il 78,7% di tutto il pesce sbarcato proviene da stock biologicamente sostenibili. E al secondo posto andiamo all'estero, andiamo lontano, andiamo in Iran, dove si compie un grande passo avanti contro l'abuso sui minori. Nasce la cosiddetta legge Romina. Dopo 11 anni di attesa, la scorsa domenica 7 giugno, il Consiglio dei Guardiani ha finalmente approvato una legge che definisce reato l'abbandono e o l'abuso, sia psicologico che fisico, di un minore. Diciamo che questa legge si potrebbe definire appunto legge Romina, perché nasce a poche settimane di distanza da quell'evento terribile, tragico, che ha scosso l'Iran e che vi ricordiamo, quando la notte del 21 maggio nella provincia di Gilan un padre ha ammazzato la propria figlia di 14 anni perché non accettava la sua relazione con un uomo molto più grande di lei e l'ha decapitata durante la notte. Dalle le proteste che sono nate nasce finalmente questa legge che anche in Iran protegge l'abuso sui minori. E infine al primo posto vogliamo dare il benvenuto alle misure del Family Act, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, questo nuovo pacchetto di riforme a sostegno della famiglia: assegni, congedi parentali, agevolazioni per le giovani coppie, incentivi per le mamme lavoratrici, sono solo alcune delle misure che sono contenute nel cosiddetto Family Act. Il decreto è stato elaborato su proposta della ministra delle pari opportunità Bonetti. Una delle parti più consistenti del nuovo DPCM è l'assegno universale, che verrà versato mensilmente alle famiglie che hanno uno o più figli sotto i 18 anni. Ci è sembrato un buon inizio, insomma, speriamo che si prosegua. E in conclusione vogliamo così diffondere questa buona notizia che arriva da una multinazionale che si chiama Procter & Gamble, la conosciamo tutti come P&G. Insomma, che cosa hanno deciso di fare loro sui loro prodotti, che sono veramente migliaia di tutti i tipi, comunque sono soprattutto, no, detergenza, diciamo così, anche se poi andando a vedere c'è dentro un po' di tutto effettivamente. Hanno deciso di dare un aiuto concreto, diciamo, alle famiglie per la ripartenza dopo Covid. L'iniziativa si chiama Ora riparti da te. E che cosa fanno? Restituiscono il 50% del valore acquisto di tutti i prodotti loro, ovviamente, fino a un massimo di 50 euro per scontrino, a tutti coloro che appunto trasmetteranno la Procter & Gamble lo scontrino in questione. E ovunque siano stati acquistati questi prodotti, quindi farmacie, negozi di elettronica, nel caso di ad esempio rasoi, online, supermercati. Insomma, a noi è parsa una buona notizia e un'occasione da cogliere se avete ancora in saccoccia gli scontrini con questi acquisti al momento di esibirli. Vorremmo un po' capire da Francesco Morace, che è un sociologo, saggista, presidente di Future Concept Lab, capire un po' da lui che bisogno ha interpretato l'azienda nel varare questa iniziativa. Lui si è già, no, cimentato con Procter & Gamble. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, abbiamo qualche minuto. Qualcosa che bisogno c'era di ridare indietro questi soldi in questa iniziativa Ora riparti da te? Ma io credo che il primo bisogno sia quello di riconoscere a tutti noi l'importanza della quotidianità. I prodotti di Procter & Gamble sono tutti, come giustamente detto, dedicati alla cura, no? Quindi alla cura di sé o alla cura della casa, insomma, sono brand che tutti conosciamo. E la cosa molto interessante è anche proprio il modo in cui l'azienda ha deciso di restituire questi soldi, perché è, come dire, una sorta di contributo simbolico, una sorta di riconoscimento, anche di gratitudine, per tutte quelle persone che, oltre che acquistare questi prodotti, si dedicano a sé, forse con più consapevolezza rispetto a qualche mese fa, perché i mesi di quarantena sono stati mesi in cui nella tragedia abbiamo anche però riscoperto l'importanza dello stare in casa, dello stare in famiglia, del prendersi cura appunto in modo diciamo igienico e nello stesso tempo anche con un'attenzione alla salute, che non era solo la bellezza per rappresentarsi, ma anche proprio ad avere un'attenzione alla nostra integrità, ecco, l'integrità psicofisica che è stata attaccata così violentemente dal virus. Quindi insomma le pare che questo... Posso fare una domanda stupida? Certo. Devo fare una domanda stupida. Allora, intanto mi sembra una buona notizia, soprattutto perché stiamo parlando di soldi veri che tornano, non stiamo parlando di un buono da spendere in un posto entro quella data, ma proprio di un accredito sul proprio conto corrente. E quindi forse la domanda è stupida, ma sono molto curioso, se lei c'era, di sapere com'è andata la riunione nella quale il marketing ha proposto a un'azienda di dire: sa qual è l'idea? Ridiamo indietro il 50% dei soldi. È proprio così, diciamo che questa è anche la grande novità di questa operazione, no? Che non è come un'operazione promozionale classica, ma è l'idea di ridare concretamente alle persone, in un momento evidentemente anche di difficoltà, anche economico, e chiaramente simbolico, perché comunque stiamo parlando non di migliaia di euro, però ecco, è l'azienda che per la prima volta riconosce l'importanza, diciamo, dell'economia domestica, che ci eravamo un po' dimenticati. Parliamo sempre di economia, di grande finanza, che alla fine è quella che decide un po' delle nostre vite, ma le multinazionali spesso dimenticano invece la qualità della vita quotidiana, quella vera. Ecco, quindi da questo punto di vista, ritrovarsi con un semplice gesto, perché basta mandare un WhatsApp, basta collegarsi al sito di Ora Riparti da Te, per ricevere sul proprio conto, no? È anche simbolicamente molto forte questo denaro. È stata proprio l'idea che i manager di Procter hanno avuto e che noi sociologicamente abbiamo considerato molto interessante. Molto interessante. Quindi non è scorso del sangue durante questa riunione. No, diciamo che in quei momenti davvero anche nelle aziende eravamo, devo dire, tutti molto concentrati sull'emergenza, scioccati, no? E quindi anche proposte così innovative sono passate e tutti erano d'accordo, proprio perché a situazioni straordinarie bisogna rispondere con iniziative straordinarie, che questa è la cosa che io riconosco all'azienda, no? Di aver capito, e l'azienda ha anche fatto altre cose come tante altre, no? Nei momenti critici, ma questo sicuramente, no? Dobbiamo chiudere. Ma questa è nuova, aspetto, sicuramente. Questo aspetto legato all'economia domestica ci è sembrato molto interessante. La ringraziamo, Francesco Moraci, per essere stato grazie con mille. Noi. Carlo, grazie per il lavoro che fate. Grazie, grazie a voi. Carlo, ci troviamo domani alle 8:30 puntuale. Certo che sì. Allora, ringraziamenti in redazione Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, in regia oggi c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini, buon proseguimento, buon ascolto e appunto a domani.